speriamo che mi accogliano. Loro mi vogliono bene a me e io ci voglio bene a loro. Dobbiamo convocare la banda. Ok. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Wish I should kill me for another drink. Let's drink to the last shot and the blood on the dishes in the sink. Prova ancora Zalia Vlahovic, cerca Cutrone, occhio a Cutrone, Cutrone va giù in area di rigore, calcio di rigore. Parte Pulgar col destro, aveva intuito Begovic, ma arriva il gol dell'1-1. That you knew it was your last shot. Buongiorno a tutti, è toccata Pierluigi Pardo, che saluto, a raccontare l'ultimo gol fin qui della stagione della Fiorentina. Ciao Pierluigi e ciao. Saluto anche Giovanni Capuano, che ringrazio perché ha lavorato su un grande convocato di oggi, presidente della Fiorentina in Eccomi diretta. Qui. Ciao Giovanni, in diretta con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, qui mattina in America. Sì, l'abbiamo fatta svegliare presto e la ringraziamo ulteriormente. Lì in America è mattina e io le chiedo subito qual è la sua visione della situazione di New York e degli Stati Uniti in questo momento. Oh, guarda, per fortuna c'è fortuna certe volte, no? Sono stato in Italia, ho visto in Italia quel che è successo e qui siamo più preparati relativo a com'era l'Italia quando è cominciato questo disastro, no? So, a New York, vicino ai circostanze di New York, le cose non vanno tanto buone, ma in tutta America fino ad oggi è più controllata che com'era il nord dell'Italia un mese fa. Nella mia azienda c'è pochissimi, che ci sono 4.500 persone, c'è pochissimi casi, fino ad ieri c'erano solo due, no? A casi di contagi, ma siccome la nostra azienda del cavo televisivo porta l'internet, l'ultra brand nelle case, è considerato dal governo un'industria importante e critica, noi andiamo ok nel business come azienda. A Firenze, in Italia, no, non siamo ok. Intanto colgo l'occasione anche per ricordare che la Fiorentina ha lanciato per sua iniziativa una raccolta fondi Forza e Cuore. C'è stata un'ultima donazione americana della Giambelli Foundation di New York che ha donato quasi 45.000 euro per un totale ora raccolto di 800.000 euro. Okay, motivo in più per farle i complimenti. Giovanni, prego. Ma intanto mi piacerebbe capire dal presidente, poi parliamo di calcio e parliamo di che cosa ci possiamo attendere nei prossimi mesi, però mi piacerebbe anche sapere come sta trascorrendo questo periodo, perché noi in gran parte siamo a casa, siamo qui in Italia, lui ha il cuore italiano, insomma mi piace anche capire come un italiano che sta fuori vive quello che sta accadendo in tutto il mondo, ma di cui noi siamo in gran parte epicentro. Sì, guarda, lascia che parlo un pochettino prima del Forza Cuore che abbiamo iniziato in marzo 17. Sì, è vero quello che hai detto, la Giambelli Foundation è una famiglia di immigrati che aveva un grandissimo ristorante qui a New York, sono morti, hanno lasciato una fondazione di questi tra loro e la Columbus Citizen Foundation. Hanno messo più di 50.000 euro ad aiutare il Forza Cuore, è la più grande donazione da persone di qui in America, per questo sono orgoglioso che sono altri italoamericani dell'America, abbiamo fatto il nostro un pochettino nostro per aiutare gli italiani e gli italiani dell'Italia, no? questa Forza e Cuore è diventata la più grande fondo, il più grande fondo di Nazione dell'Italia qui in tutta l'America. So, per questo sono orgoglioso di quello che hanno fatto non solo qui dall'America, ma pure i piccoli e i grandi donazioni che sono arrivati, oltre 2.300 donazioni che sono arrivate, piccoli e grandi, del popolo viola a Firenze. E tutti questi soldi sono stati e verranno dati alle prime linee, agli ospedali, a quegli infermieri, ai dottori, a comprare equipment importanti per curare la povera gente che è stata afflitta da questa malattia. Lo ringrazio a tutti, ringrazio la prima linea di Firenze e degli ospedali, grazie di quello che hanno fatto. Grazie. No, tu lo mandavi, io come la faccio? Sono in casa da 3 settimane, qui, oltre 3 settimane, con io, mia moglie, mia figlia, siamo chiusi in casa come la maggior parte dei fiorentini sono qui in casa. In Firenze c'è mio figlio Gio, che pure lui è chiuso, Giuseppe. E Gio Barone, suo figlio, che vengono da Brooklyn, no, dall'America pure, sono chiusi, ma si va avanti a lavorare. Stiamo lavorando ogni giorno per la Fiorentina, per il futuro del calcio. Pierluigi. Beh no, ma io credo che il Presidente, insomma l'ho detto tante volte, abbia trovato una sintonia, abbia capito, un po' ce l'ha secondo me anche proprio per carattere, il concetto dell'empatia, il fatto che il calcio è anche una comunità, no? di persone, di passioni, di interessi, non è soltanto business, ma è anche ovviamente ha un ruolo sociale fondamentale. No, gli chiedo com'è lo stato d'animo, com'è l'umore all'interno del clan Viola, che sappiamo insomma è stato anche colpito direttamente con qualche caso di positività, come è successo da altre parti. Perché ecco, da questo punto di vista veramente questo è un virus, qualcuno dice democratico, no? Che colpisce tutti, colpisce pure il primo ministro inglese, quindi com'è la situazione adesso e come avete vissuto questi giorni non semplici? Sì, guarda, noi abbiamo avuto casi dei giocatori e casi di altri dipendenti della Fiorentina per la parte medica, no? Fisioterapisti, dottori. E sono stati in ospedale. Io credo, come la vedo io, che umanamente siamo tutti più vicini, siamo più forti, siamo, ci vogliamo tutti più bene ancora. So che c'è questo desiderio dei giocatori di cominciare a andare fuori a giocare, perché questo è il loro lavoro, no? So, io credo che nella Fiorentina, con i sacrifici che abbiamo fatto tutti, siamo più insieme, più vicini. Io ho parlato con tutti i giocatori della prima squadra, pure quelle femminile, gli allenatori, non tutti, non posso dire il 100%, ma quasi tutti, no? Della prima squadra ci sono i giovani, gli allenatori dei giovani, dipendenti, e per questo pure che essendo qui a New York, ogni mattina, ogni giorno cerco di parlare per chi ha bisogno di me un pochettino. No, siamo vicini, più vicini. Presidente, argomenti di stretta attualità in questi giorni in Italia. La sua posizione, provare a finire questa stagione o andare oltre? Guarda, per il bene del calcio sarebbe bene se potrebbe finire questa stagione, ma prima viene la salute, come ho detto dal primo giorno, e dobbiamo essere sicuri che se qualcuno prende un rischio di andare a giocare, che la salute viene prima e il business viene secondo, ok? Su questo sono convinto che è la cosa giusta da fare. Eppure il fatto che sì, il calcio è bello, è questo, ma la povera gente dell'Italia c'è altre cose nella loro mente, nel loro cuore, perché ognuno è stato affettato da questo caso che avviene ogni 100 anni, no? So, se c'è, no, c'è, da, ce la possiamo fare con la salute, che tutto va bene, che non prendiamo molti rischi dei giocatori, perché i stadi saranno chiusi, cioè sono per lo più i giocatori, però speriamo che si può andare avanti a concludere il campionato. Se questo non può succedere, si va là, cioè non possiamo rovinare, you know, la 2021, no? Per finire questo campionato si deve guardare avanti e pensare che la nostra azienda, che il nostro business del calcio, che il nostro calcio, i giocatori, you know, questi sono investimenti a lungo termine, no? Non si deve guardare un mese all'altro, ma si deve guardare più al futuro e riportare questa industria del calcio, questo patrimonio italiano, you know, della nostra nazione, che è importantissimo, no? Non solo a dare gioia ai tifosi, ma pure come azienda dell'Italia, di mandarlo avanti il più presto possibile e ricominciare la vita che avevamo pochi mesi fa. Sì, quindi la posizione che credo maggioritaria, Giovanni, è anche quella di maggiore buonsenso, se possibile e coi tempi giusti si cerca di portare a casa il risultato, cioè il finale della stagione. Sì, poi c'è da capire dove si ponga l'asticella del se possibile, se c'è una data limite, luglio, agosto, perché è chiaro che, e lo abbiamo capito, FIFA e UEFA toglieranno qualunque tipo di paletto per provare a portare a termine questa stagione. C'è da capire come sarà possibile. Qualche minuto fa, e giro queste parole al presidente commisso, il numero uno della Liga Spagnola, Tebas, ha detto che la situazione economica del calcio italiano è molto peggiore di quella che c'è in Spagna, in Germania ad esempio, e quindi è una situazione complicata con una soluzione che sarà difficile. Poi lui dice non è la soluzione ingaggiare Messi, che è una delle cose di cui si è parlato. Ecco, volevo capire, secondo il presidente commisso, come immagina che possa uscire il calcio italiano da questa situazione a livello economico. Ah. Sì, guarda, ognuno dobbiamo fare la nostra parte, no? Io lascio che un pochettino parlo della Fiorentina. Nello spazio di meno di 10 mesi noi abbiamo messo sul tavolo oltre 300 milioni di euro. È la più grande somma mai messa di una persona che è entrata nel calcio italiano, dei soldi suoi. Questi non sono soldi di fondi, di compagnie pubbliche, di aziende pubbliche, ok? E fino a un certo punto sono contrario, ma c'è stata una grande perdita su questi soldi, no? Ma io posso andare avanti perché dietro di me c'è una grande azienda come Mediacom, che fa bene, c'è un fatturato di ricavi di oltre 2 miliardi ogni anno, è un'azienda buona. Ma non tutti sono nella situazione mia, perché ci sono, you know, ci sono altre aziende, altri club qui in Italia che forse non potranno andare avanti se non ci sono qualche aiuto dal sistema calcio, aiuto dal governo e aiuto da, che fanno la loro parte dei giocatori. Io credo che è l'aiuto più long term, a lungo termine, no? Sul caso che ho parlato il primo giorno, sugli stadi, sugli investimenti, sulle infrastrutture, ok? So, voglio che ognuno fa la sua parte, ma che il governo capisse che questo è un patrimonio, il nostro calcio è un patrimonio della nazione, e che e parliamo di questo, no? Sugli stadi, che quelli che vogliono investire che lo lasciano fare, come uno come me, no? Io ho cominciato dopo pochi mesi, dopo un mese ho parlato degli stadi, l'importanza che l'Italia deve avere, il calcio deve avere infrastrutture che sono moderne, dove la gente può andare senza, nel caso dello stadio, che è un'operazione di 7 giorni alla settimana, non 2 ore ogni 2 settimane. Che nel nostro caso, quando le opportunità erano ok, abbiamo voluto velocemente spendere per la prima volta nella storia di Fiorentina, spendere le nostre proprietà, il centro sportivo dove sarà il più grande d'Italia. Abbiamo comprato i terreni, abbiamo cominciato a costruire già un pochettino, perché ora si sono tutti è stato un stop di tutto, sì, quasi, pure con i nostri architetti, no? E con il comune di darci i permessi. Ma noi vogliamo, you know, avevamo l'obiettivo di finire entro la fine del 2021. Questa era una grande cosa per il sistema calcio, per la Fiorentina, per Firenze, per il centro sportivo. Ma dal primo giorno ho parlato degli stadi, io, che si deve fare qualcosa per la gente che vuole investire, che lo lasciano investire. E qui ci vuole la politica ad aiutare molto a cambiare certe leggi che non sono buone per l'Italia, per il sistema Italia. No, per mandare avanti dalla mia parte il sistema calcio, e speriamo che lo facciano pure con l'altra industria, che hanno molto bisogno di una politica con meno burocrazia, dove le decisioni si possono fare subiti e di portare più soldi dall'estero ad investire in Italia. Eh sì, di buon senso, ovviamente investimenti strutturali, come abbiamo ripetuto molte volte, non legati alla, insomma, all'attualità, alla cronaca stretta dell'acquisto di giocatori. Pierluigi, arriviamo all'altro tema di questi giorni. Ieri c'è stata una, grosso modo, una intesa, che è già abbastanza strano dalle nostre parti, tra i club all'interno della Lega, per la riduzione degli stipendi dei giocatori. Un terzo dell'intera annualità se non si ricomincerà a giocare, un sesto in caso di ripresa del campionato. L'associazione calciatori ha già detto niente, è una cosa che non ci va bene, e quindi si passa alle trattative private, grosso modo, Pier. Sì, quindi chiederei al presidente se lui ha già dei feedback da questo punto di vista, qual è la sua opinione. La mia la sapete, cioè io credo che al di là degli aspetti legali, che ovviamente contano nei rapporti fra club e televisioni, contano nei rapporti fra televisioni e abbonati, contano su tutto, e quindi ovviamente anche nel rapporto fra società e calciatori, ci deve essere un tema che tutti si devono mettere in testa, che è quello della sostenibilità virtuosa del sistema. Cioè, un calciatore che pianta i piedi, punta i piedi, scusa, per salvare ogni singolo euro del suo ingaggio, ma che poi fra un anno si rischia di trovare in un calcio che non va più avanti, secondo me di fondo non fa un grande affare. Volevo sapere il presidente cosa ne pensa e che feedback ha lui insomma all'interno della Fiorentina. Sì, guarda, io la penso allo stesso modo. Noi abbiamo fatto il nostro, e ti dico questo, guarda, parliamo prima della Fiorentina. Nel caso della Fiorentina, noi avevamo una rosa che la transfer market la valuta a 100 milioni, ma quella rosa non vale lo stesso oggi. Noi abbiamo fatto molto più meno di 300 milioni. A gennaio abbiamo fatto il più grande investimento nel transfer market di gennaio in Italia, dove abbiamo speso oltre 70 milioni. Se questo si voleva fare oggi, forse quei 70 milioni noi spendevamo 30, 40, 50 milioni. Ok? Ci sono aziende come la Juventus, Juventus, Lazio, Roma, Manchester United, forse ci sono altre che sono pubbliche, che se tu guardi il loro, come si chiama, la valutazione nei mercati pubblici, no? Della Juventus, hanno perso 30, 40, 50% del loro valore. Il mondo è cambiato radicalmente, e questo l'ho visto io 10 anni fa con la grande recessione del 2008, eppure settembre 1, no? Quando le Torri Gemelle, che da un giorno all'altro il mondo economico può cambiare, e sta cambiando nel calcio. Parlando dei giocatori della Lega, quello che la Lega ha proposto, io lo vedo molto giusto. Preso l'esempio del più grande club italiano, che è quello della Juventus, dove hanno ridotto tra la Juventus e i giocatori, credo che, come ho sentito, oltre 90 milioni di euro, you know, sui compensi dei giocatori, e non è una cosa, you know, questo è importante perché i giocatori sono il più grande costo dell'azienda, e se i giocatori non fanno la loro parte, come si può andare avanti? Il sistema, you know, si rovinano loro stessi, loro devono guardare, penso io, più a lungo termine che in un mese all'altro. Non è che non prendono niente, no, non è che non sono stati pagati in questi mesi, in questi anni. So, loro è importante pure per i tifosi, per quelli che non hanno un buon lavoro, per i dipendenti che non prendono questi soldi della Fiorentina e degli altri club. You know, che ognuno fa la sua parte. Noi abbiamo fatto la nostra parte come proprietari della Fiorentina di avere perso decine e decine di milioni di dollari in questi mesi, no? La domanda che si fa dei giocatori è una minima cosa, nel senso che loro sono i più importanti, più costosi, come si dice in italiano, scusa se non lo parlo bene, no, ma in un'azienda i giocatori, dei ricavi che facciamo, i giocatori sono 50-60-70% dei ricavi. Sì. Se non possiamo avere i ricavi che sono ridotti, la valutazione dell'azienda che sono ridotti, e questi costi che erano fatti anni fa, tre mesi fa, che sono lo stesso. Io credo che un piccolo sacrificio, come la vedo io, no? E parlo del tutto sistema calcio, no? Perché se loro non possono fare i sacrifici, pensa tu nella Serie B, nella Serie C e nella Serie D che succederà, no? Uh-huh, i proprietari non sono ricchi come in altri della Serie A, e secondo i giocatori della Serie B, C e D non prendono questi soldi. So, io dico che, ragazzi, facciamo la nostra parte e per salvare il nostro calcio nel futuro. Anche qui ragionamento di estremo buon senso che si accoppia a quanto ci ha detto anche l'altro giorno il presidente del Lecce. Mi sembra speculare questo tipo di ragionamento. Giusto, ma è giusto, e ti dico, è una prospettiva. Cioè, io davvero penso che questo non sia un punto di vista di parte. Tante volte nella storia, ma qui il discorso è più complesso, ci sono stati gruppi che hanno utilizzato crisi come pretesto per prendersela con i lavoratori, ma qui, a parte il fatto che qui stiamo parlando veramente di lavoratori particolarmente fortunati, ma qui c'è veramente un tema di crisi, di shock complessivo mondiale, quindi vale, ma ti ripeto, lo stesso principio che può valere anche per chi fa spettacolo, per chi fa concerti, per chi fa televisione, cioè è ovvio, è assolutamente ovvio. Poi a nessuno chiaramente piace dover rinunciare a un 10, 20, 30% del proprio stipendio, però, sì, però se questo di sopravvivenza del sistema. Capito? Cioè meglio rinunciare a questa roba qui, ma avere poi una prospettiva, piuttosto che non lasciare neanche un euro e trovarsi il problema fra sei mesi. Certo, e questo secondo me è lo scenario. Questo è lo scenario. Perché, Giovanni, insomma, la tua posizione qual è? No, ma la mia posizione è, mi pare, insomma, di leggere tra le righe quello che ha detto il presidente commisso, è che quindi abbia trovato deludente la prima risposta dell'Assocalciatori, che ha definito vergognosa la piattaforma presentata ieri dai club. Poi ci sarà una trattativa dentro i club e saremo qui a raccontarla. Volevo tornare un secondo sulla questione degli stadi, perché noi l'ultimo sviluppo conosciuto della Fiorentina era la rinuncia al bando Merckx. Ma lascia, prima che fa la domanda, lascia che ci faccio la guglia. Sì. I miei giocatori pure, guarda, oggi a Riperia 37, se non sbaglio, fa 37 anni, e Martin Cáceres fa 36, so buon compleanno, ragazzi, ok? Perché io li voglio bene, come un padre, no? So, non faccio critiche individuali, io parlo nel collettivo, no, che ognuno di noi fa il nostro passo. No, no, ma io intendevo deludente non la risposta dei giocatori della Fiorentina. Ma la risposta che è stata data ieri dal presidente del sindacato dei calciatori, poi, come ho detto, insomma, ogni club troverà la sua quadra. No, tornando invece alla questione stadio, noi l'ultimo atto conosciuto che abbiamo della Fiorentina è stata la rinuncia al bando Mercafir perché le condizioni erano differenti da quelle che si erano immaginate all'inizio di tutto il processo per provare a dare alla Fiorentina un nuovo stadio. Chiedo al presidente commisso se magari immagina nella sua visione che lo shock che provoca quello che è accaduto in queste settimane possa in qualche modo riaprire quel dossier con il comune di Firenze. Non lo so questo, perché il bando doveva finire oggi e ora ho sentito che c'è un decreto dove il bando sarà finito nella metà di maggio, come capisco, come ho letto io. Quello che è stato fatto nel caso della Mercatore, dove c'è stato il bando, che la vedo, venendo dall'America, no, la vedo una cosa stupida, che si deve fare un bando quando l'uno che può fare questi investimenti è Rocco, la Fiorentina, hai capito? È una situazione, se faccio il bando, c'è un sistema di un bando, io sono l'unico che posso fare un bando, perché devo fare il bando io, hai capito? Io comincio da zero, non da un minimo che ne ho messo. Andando avanti sulla merce, perché voglio parlare solo un minuto, ci sono stati messi soldi, milioni e milioni di dollari che devo mettere per comprare terreno, dopo per aggiustare le strade, per fare questo, quest'altro. Dopo c'è un altro concetto che non è stato forse mai descritto da qualcuno, che il giorno che io faccio l'investimento in questa zona, le tasse che vanno pagate al governo si menzeranno di un molto po' di 5-6 volte. Facciamo le tasse oggi, come credo io, sono un 200-300 mila dollari all'anno, e dopo che faccio l'investimento sarebbero 1,8 milioni. Facciamo che la differenza di 1,5 milioni, qua moltiplicato per 50 anni sono 75 milioni. Io vedo questa cosa, che io faccio l'investimento per mandare le tasse avanti. Ma per chi? Non c'è stato fatto, come la legge dovrebbe prevedere, un cost benefit analysis, non so come si dice in italiano, io metto i soldi, ma ci sono pure benefici per la città, per il comune, per la zona, di andare avanti, di portare avanti le attività economiche in quella zona. Io ho visto che questo bando per me come è fatto non vale niente. Noi stiamo lavorando, e dopo c'è il fatto che sul vecchio stadio, che è stato costruito nel 1932, c'è la storia dei monumenti, no? Che è un monumento di calcio armato, hai capito? Io non voglio fare critica agli ingegneri, agli architetti che hanno fatto questo lavoro, di certo è una cosa importante, ma io credo che ci sono tanti monumenti in Italia più importanti di uno stadio, no? Andiamo a guardare i monumenti che devono rimanere a vita, no? Sì, anche Wembley era un monumento. I monumenti che non sono buoni, per me i monumenti sono le persone nel gioco del calcio, no? Sono i giocatori e sono i tifosi, loro si devono guardare come monumenti. Certo, perché è una zona dove la gente va a divertirsi, a gioire, e questo è il calcio. Noi stiamo lavorando tramite Gio Barone, che è il mio, lo chiamo il mio braccio destro dall'America in Italia. Sta lavorando con la Lega, con Palagò, con Galina, con lo Stato, con i nostri legali, giustamente, cercare di fare una nuova legge, non solo per la Fiorentina, ma per tutti quelli che vogliono investire. Parlo della Roma, della Lazio, delle due squadre di Milano, del Napoli, chi vuole fare un nuovo stadio, perché il numero uno problema del calcio italiano, della Serie A, è perché si trova in queste male condizioni e che non ci sono le infrastrutture moderne e di proprietà. Sì, si tratta di entrare nell'era moderna. Io chiedo un secondo di pazienza al collega della Borsa per un'ultima domanda al presidente della Fiorentina. Se sta pensando in questi giorni, prima ha detto di Ribéry, ci uniamo agli auguri 37 anni, ma sta già pensando alla Fiorentina che verrà, la Fiorentina del futuro? Sì, ogni giorno la penso. Vogliamo giocare qua. Guardi, io credo che noi abbiamo cominciato, tu lo sai, no? Sono arrivato a giugno, il mercato, you know, molte decisioni che si dovevano prendere, so, non è che abbiamo fatto un mercato eccellente, you know, in estate, no? Abbiamo cominciato non molto bene, abbiamo dovuto cambiare you know, l'allenatore, ha portato Iachini. E sta andando bene, dopo abbiamo fatto il mercato di gennaio, dove abbiamo preso you know, 6 o 7 giocatori e ci stavamo preparando you know, non solo per il secondo, you know, secondo la seconda parte del campionato, ma pure per l'anno prossimo. So, guarda, io per me voglio vincere qualche cosa. Nel senso che non sono venuto in Italia you know, ad essere, come ho detto l'altro giorno, la principessa delle squadre che hanno il rischio di andare in Serie B. Io credo che il posto della Fiorentina deve essere come era you know, negli anni passati, una delle principesse, delle 7 principesse del calcio italiano. Quando si arriverà a tutto il rischio, questo non lo posso dire. Ma speriamo che, come ha detto Dalci, con la mano destra lavoro per la società, per la squadra, e con la mano sinistra posso fare le infrastrutture, perché senza lo stadio e senza i ricavi che verranno dallo stadio, you know, dalle infrastrutture, you know, senza questi non si possono, e con il fair play, financial fair play you know, della UEFA, you know, non si possono fare you know, certo. Investimenti sui giocatori si può investire, quindi, alle mani piene, destra e sinistra, alle mani sì. Piene, come dicono in America. Carlo sì, lo possiamo salutare lasciandolo alla colazione dicendogli una cosa. Oggi Matteo Renzi, che immagino il presidente commisso conosca, durante una diretta sui social con il giornalista Enrico Mentana, ha detto: io so dove va Chiesa, andrà all'Inter, dalle mie informazioni giocherà lì. Le sa bene le informazioni Matteo Renzi o no, presidente? Guarda, Renzi si deve guardare la politica, perché se non lo so io, come lo può sapere lui? Ok, so, lui è un grande tifoso della Fiorentina, un amico, e ci dice perché non ce lo dice Renzi, che si guarda, you know, che si guarda la politica più del calcio. Ok, la calcio me lo vedo io, perché io faccio queste decisioni a lui. Io credo che ho detto un anno fa che Chiesa resterà la Fiorentina, questa promessa l'ho mantenuta, e più di 3 mesi fa sono convinto che i nostri giocatori vogliono restare più alla Fiorentina che andare via, ok? E lascio lì, perché non ho potuto incontrare Chiesa in questo mese, non sono in Italia, non si può trattare, you know, non si può trattare via telefono con un caso così, no? Quindi rimane tutto, no, social. Dico al presidente che l'altro giorno Corrado Formigli, che è un tifoso viola, ovviamente conduttore della 7, ha detto che commisso piace perché ai tifosi della Fiorentina non piacciono i fighetti, e quindi ha perfettamente interpretato i desiderata della città. Questo ragazzi, grazie a tutti, riporto. Grazie presidente commisso, grazie davvero, e in bocca al lupo per lei, per grazie poi, ragazzi, la sua squadra poi, e buona fortuna a tutta l'Italia, buona come dice, bocca al lupo, no? Che tutto state bene con la salute e le vostre famiglie, a tutti quanti. Ci vediamo tutto presto, ed è una promessa. Ci vediamo presto, ed è una promessa. Grazie al presidente commisso, grazie ovviamente a Giovanni Capuano, per Luigi Pardo. Siamo in ritardissimo sulla borsa, chiedo scusa, torniamo poi col Bartur. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati. anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander. Beh, ragazzi, questa sarebbe piaciuta, anzi credo piaccia molto anche al nostro precedente ospite Rocco Commesso, non so se sia pertinente. Marino Bartoletti, Leo Turrini, buongiorno. Buongiorno, un caro saluto dall'orso marino, l'orso della montagna, che vive delle sue piccole necessità e che ieri per la prima volta in vita sua ha fatto una pasta alla carbonara. Non vi sto a dire gli esiti perché potrei, come dire, abbassare l'audience della trasmissione. Beh, dall'altra parte, l'altro giorno abbiamo sentito che il presidente del Torino Cairo si fa l'uovo al tegamino. Pasta carbonara mi sembra già un upgrade notevole. Sì, vorrei vederlo, vorrei vederlo. Leo, ti ha invitato a mangiarla? Io devo dire che sono custodito a casa, non devo cimentarmi tra i fornelli. Ho come tutti voi un grandissimo rimpianto, un'enorme nostalgia per l'ingorgo che c'era sempre sulla Piero Cormano, che adesso è desolatamente vuota, ma è meglio che sia vuota perché significa che stiamo tutti cercando di fare quello che è giusto fare. Sì, sì, sì, sì. Presto tornerà ad essere intasata ed è una grande speranza quella della Piero Cormano intasata. Beh, è un sogno, è sì, un sogno. Per... è un sogno come la carbonara fatta da Marino, capisci? Tra l'altro io mi ricordo quando Marino, insomma, lui cerca sempre un attimo di nascondere i suoi enormi successi professionali, ma il famoso programma di Luigi Veronelli che andava in onda alla fine degli anni 60, primi anni 70 sulla Rai in bianco e nero, no? Le ricette erano di Bartoletti, credo che Marino adesso lo possa rivelare, no? Non ho mai usato confessare che ero astemio a Veronelli, però fu una no, bella trasmissione. Tu adesso sull'astemio io avrei qualcosa da dire, perché mi ricordo una serata che eravamo io, te, James Sant, Giacomo Agostini e insomma siamo finiti tutti sotto il tavolo e credo che fosse il 1973-74 e c'era Ant che tirava fuori sempre i cannoni e io ti dicevo: Marino, abbiamo un'età, ci fa male. Ma no, vai, tiriamo. Ecco, io vorrei che tornassero anche quei momenti lì, hai capito? Ah, almeno questo. Mi sembra il clima ideale, sì. per anche per ricordare, cioè, stiamo un po' troppo abituando agli addii, bisogna cambiare, invertire tendenza, ragazzi. Però Ezio Vendrame, più che il best italiano, ci ha lasciato nei giorni scorsi, non per il coronavirus ma per un'altra malattia. Più che il best italiano forse era il nostro Bukowski. Cosa dici, Marino? Io dico che si annoierebbe molto a sentirci, per la verità, e ci sgriderebbe se solo osassimo fare qualcosa che assomiglia a un coccodrillo. Esatto. Io con lui, quando lo incontravo, parlavo di musica, penso un po', avevamo gusti abbastanza differenti. Ci ritrovavamo persino sul palcoscenico del Festival di Sanremo del 2005, quando Paolo Bonolis volle mettere assieme uno strano zoo di personaggi che discutevano praticamente in diretta. Naturalmente feci il Vendrame anche in quel caso. Disse una cosa sinceramente sgradevole nei confronti di Gigi D'Alessio, la curva di Gigi ovviamente ebbe qualcosa da ridire, venne fuori un tumulto e Bonolis disse: ragazzi, io voglio bene sia a Vendrame che ad Alessio, per cui Vendrame così ce lo dobbiamo tenere così. Noi gli imputiamo di aver buttato via il suo talento, la sua carriera, forse la sua vita stessa. Lui ha sempre detto che quelli che noi abbiamo scambiato per i suoi errori sono le cose di cui va più fiero. E allora certamente è morto arrabbiato, certamente è morto solo, certamente non voleva morire e non doveva morire, ma certamente ha fatto la vita che voleva. E allora togliamoci il cappello davanti a questo strano campione, che qualcuno l'avrà letto, quando incontrò Gianni Mura, che è l'unica persona che sarebbe stata degna di scrivere qualcosa dopo la sua partenza. Lo fece al cimitero di Casarsa del Friuli, davanti alla tomba di Pasolini, dicendo: Casarsa è il Pasolini è il più vivo dei miei concittadini. Una provocazione, certamente, però questo era Vendrame. Teniamocelo così, ricordiamocelo così, col sorriso. Ragazzi, io vorrei integrare, come sempre, quello che dice il mio compagno di bisbocce Marino con un verso di Vendrame. Siccome siamo in fascia protetta, cambierò una parola. È quella che lui considerava la sua più grande poesia. E questa poesia di Vendrame è così: mi piace il tuo sesso non perché è sesso, ma perché è tuo. Ecco, io credo che un uomo che arrivi a pensare, a mettere per iscritto questo, dedicandolo alla donna che ama, è assolutamente un genio della creatività. Dopodiché ha ragione Marino, se parliamo del Vendrame come talento calcistico, è uno che si è buttato via, è uno come tanti, poi voglio dire, piena la storia, pensate Gascogne, no? Quello della Lazio, della nazionale inglese, era un talento pazzesco, il quale però prima di ogni partita importante svuotava una cantina. Io al Mondiale d'Italia 90, che avevo già 70 anni, nella fase finale dovevo seguire proprio gli inglesi, no? C'era la semifinale con la Germania alla sera, che poi vinsero i tedeschi i calci di rigore, e la mattina eravamo nell'albergo dove si trovava in ritiro la squadra inglese, e c'era Gascogne alle 10 della mattina che beveva a collo da una bottiglia di whisky che era quasi finita, e la sera fece una partita, devo dire, assolutamente esemplare, che voleva significare, come peraltro James Hunt tentò veramente di spiegare a Marino quella sera che ci trovavamo con Agostini eccetera, 73, che non è detto che poi davvero sempre il consumo di alcolici faccia male, ecco, diciamo anche questo in questo periodo di clausura, hai capito? Io sì, purtroppo non ho più nulla in casa se non del Lambrusco, e quindi mi ricordo i tempi in cui arrivava Carlo Genta, il conduttore di questa trasmissione, diceva facciamoci uno sciottino, poi Genta se ne faceva quattro e dopodiché andava in onda, nessuno ha mai capito come facesse ed era bravissimo, ecco, diciamolo. Genta è un po' il Gascogne della radio, Marino. Io confuto solo Leo il fatto che tu a Italia 90 avessi 70 anni, cosa fai? Cominci a calarti gli anni anche tu come le signore? Hai ragione, sto bleffando un po' sulla carta. Si tira via gli anni, non mi aspettavo questa, nemmeno da Leo Turini. Traffico, torniamo subito, poi vi faccio commentare le parole di due vostri amici, uno a testa. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Allora Marino Bartoletti, c'è un Mancini per te, questo. Nessuno di noi avrebbe voluto non giocare agli europei, ed il motivo è quello che, insomma, che è successo in tutta Europa, in tutto il mondo. Se ne sono andate tante persone, questa è la cosa più difficile da accettare, quindi questa è la prima cosa. E poi a livello calcistico credo che per noi possa anche andar bene, nel senso che abbiamo una squadra giovane, quindi possiamo continuare a lavorare e cercare di migliorarle. Sicuramente i ragazzi più giovani avranno possibilità di avere più esperienza fra un anno. Allora, per la storia dei bicchieri, in questo caso Mancini continua a vederlo mezzo pieno. La prendo larga, Carlo. Fra due giorni sarà il compleanno di Paolo Mantovani, avrebbe compiuto 90 anni. Io gli ho già dedicato, perché mi prudevano le mani, un pensiero molto affettuoso su Facebook, perché è stato un presidente particolare, come sinceramente non ne ho mai conosciuti e come non ne conoscerò mai più, perché non è stato il presidente padrone, ma il presidente padre. Bene, uno dei figli, che anche per merito suo gli è riuscito meglio, sicuramente Roberto Mancini, che io stimo da molto, tu lo sai, chi mi segue lo sa, ma che non ho mai stimato come in questo momento. Da quando è commissario tecnico nazionale non ha sbagliato nulla, e il meno sono stati i risultati, che pure sono stati molti eclatanti. Io raramente ricordo un commissario tecnico che, per usare una tua espressione, vedesse sempre il bicchiere mezzo pieno. Mancini trasmette positività, vero, ed è vero, esattamente vero. Quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Io non so se è meglio, se è peggio. Sì, in linea teorica la nostra nazionale, che è giovane, fra un anno dovrebbe essere, come dire, maturata, migliorata, ma non è detto che anche una nazionale fresca, incosciente di rincorsa non potesse fare bene anche quest'anno. Ma il fatto che Roberto mantenga ferma questa posizione della positività e del piacere di guardare avanti con ottimismo me lo fa, se possibile, rendere ancora migliore i miei occhi, e già non era possibile. Sì, l'abbiamo sottolineato tante volte questo ottimismo manciniano, che è una delle, insomma, dei raggi di luce più belli in questo periodo. Mi vengono solo parole brutte, quindi passo oltre. Leotturini, come sai, sì, sono quanto di più diverso ci possa essere dalla mia concittadina Maria De Filippi, però ho posta anche per te. Ma io credo che non sia per niente proibito in questo momento per l'Inter, non lo era forse anche prima di questa disgrazia. Messi adesso è a fine contratto, e penso che sia certamente uno sforzo da parte della società per cercare di pensare di portarselo a casa. Naturalmente questa situazione non so se cambia in positivo o in negativo. Allora, questo era Massimo Moratti, Leo. Sì, l'ho riconosciuto e lo saluto tanto, però voglio dire una cosa, siccome proprio oggi Moratti ha naturalmente detto che questo è l'auspicio di un tifoso, lui non c'entra più con l'Inter, non è nemmeno azionista, sai, noi stiamo attraversando un tempo osceno, purtroppo, che ci è capitato tra capo e collo, non avremmo mai osato immaginarlo. Nei ritagli, appunto, di disperazione, cosa facciamo? Soprattutto se siamo appassionati di sport, non solo di calcio, proviamo a immaginare qualche cosa per il futuro. Ad esempio, io ieri parlavo con Moser, che tu dovresti convocare domani, tutti convocati, perché sono 40 anni dalla sua ultima vittoria alla Roubaix. E lui mi diceva: buona idea, sì, grazie. Mi fa piacere ricordare le mie imprese, però io vorrei tornare a pedalare sulle pietre della Roubaix con te, Gita, Bartoletti, eccetera, perché vorrebbe dire che questo inferno è finito. Quindi magari Messi venisse a vestire la maglia dell'Inter, arriveremmo comunque secondi dietro la Juventus, ma sarebbe una soddisfazione di vederlo con la casacca nerazzurra. Però sai, se ripeto, sono quei ragionamenti che facciamo per tenerci un po' su in tutti gli ambiti, no? Perché Hamilton alla Ferrari, no? E chi lo sa, magari poi succede veramente. L'importante è che si ricominci, che si riparta, che si possa tornare a vivere, che ci sia restituito il diritto a coltivare le nostre emozioni tutti insieme. Tra l'altro io e Marino siamo veramente molto anziani. Ricordo una volta che eravamo insieme a cena con Vittorio Pozzo e Enzo Ferrari, e Marino disse: guarda, sono nostri coetanei Pozzo e Ferrari, speriamo che siano con noi anche nel 2020, e meno male che non ci sono, per loro fortuna, che non vedono questa catastrofe, questo disastro, hai capito? Ma passerà pure, finirà. Senti, ma tu sai perfettamente però che se andiamo a pedalare su alla Roubaix, l'unico che ce la fa è il professor Bartoletti, perché io e te... Ma Marino ci stacca tutti, perché si fa dare le tabelle da Sarri. Sai che Bartoletti e Sarri non parlano di calcio, parlano solo di tabelle sui rulli, di allenamenti. Sì, su di queste cose io continuo a mantenere i miei dubbi legittimi, lasciatemeli, ok? Però va bene così. Posso dire una cosa, Carlo, a chiosare la perfezione di quello che ha detto il mio socio di bar. È molto bello sognare, è una cosa che ci aiuta molto. Qualcuno ha scritto: "You may say I'm a dreamer", non mi ricordo bene chi l'ha scritto, ma doveva essere uno famoso. Però se ci si lascerà qualcosa di utile questa vicenda, che hai ragione tu, è meglio non definire, anche perché non è perimetrabile, è che forse potremo fare soprattutto dei sogni sostenibili. Ecco, la sostenibilità, cioè il realismo, il pragmatismo, forse anche un po' di livellamento e quindi di gioiosa partecipazione comune, potrebbe essere l'esito più importante di questo brutto momento che stiamo vivendo. Quindi è giusto sognare Messi all'Inter, non credo che arriverà Messi all'Inter, credo che si riparterà dai blocchi di partenza tutti con una prospettiva, per usare un aggettivo che ho sentito usare prima, più democratica. E anche quello della sostenibilità, Leo, è anche un obiettivo che sta... perseguendo, sai, la ricchissima Formula 1, che sta contando, sì, i soldi, sì, come mia nonna quando mi dava i soldi della spesa. Sotto i nostri occhi è cambiato il mondo. Io credo che quando ricominceremo sarà impossibile comunque riavere quello globale, intendo, lo sport business al quale eravamo abituati. pensate per quanto tempo comunque non sarà possibile andare allo stadio tutti insieme o andare nei palazzi dello sport, negli autodromi, proprio perché ci saranno delle precauzioni comunque da rispettare. Quindi è evidente che è un intero universo che dovrà ridefinire le sue norme di comportamento e anche le sue leggi finanziarie. Però, come diceva Marino, noi dobbiamo tutti credere che ripartiremo, come cantava il mio amico Vasco, per un mondo migliore. Io me lo auguro, sono convinto, e soprattutto ci sarà sempre gente a Radio 24 e quindi sarà un mondo migliore, nonostante la presenza di Pardo. Vabbè, ma ne farò una ragione. Soprattutto torneranno le code sulla Piero Cormano, e questa è una certezza che ci auguriamo. Ah, accetto anche Pardo, dai, va bene, dai, pur di tornare lì. Accetto. Anche Lotito, oggi... che oggi ha detto, non vedo alcuna controindicazione alla ripresa degli allenamenti con la necessaria cautela. Ci vada lui a fare allenamento. Io accetto anche che Lotito vada a fare allenamento, subito, che vada. Io lo concedo molto volentieri. Vabbè ragazzi, vi ringrazio come al solito e come sempre. Un abbraccio. Ciao. Vogliamoci bene. Vogliamoci bene tutti insieme e ritroviamoci sempre qui al Bar Turra tra 7 giorni esatti. Grazie a Giorgio De Luca, oltre ovviamente a Claudia Schiattone, oggi a Roberta Frisani in regia. Ciao a tutti, da domani tutti convocati alle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.